si gira, si gira. Quando ti vede passare, passare. Non sente più che c'è freddo, c'è freddo. E resta ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco. Con quegli stivali e quel nero col pacco. Sei bionda, sei proprio uno spacco.